Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate quello che sto per annunziarvi. Non è una giustizia propria, derivante dalla legge, ma è la giustizia che si ha mediante la fede in Cristo. È chiamata la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Prestate molta attenzione a questa espressione, la giustizia che viene da Dio, perché è la giustizia di Dio quella di cui voglio parlarvi, la giustizia che Dio imputa a coloro che credono in Cristo, ossia a coloro che credono nell'Evangelo, che è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Questo è l'Evangelo, credendo nel quale l'uomo viene giustificato in quanto gli viene imputata da Dio la sua giustizia, la giustizia di Dio. Cosa significa che gli viene imputata? Cioè gli viene messa in conto, gli viene attribuita, per cui egli diventa l'uomo peccatore che crede nell'Evangelo, diventa un giusto e viene annoverato dal momento in cui crede nell'Evangelo tra i giusti. Dunque, questa è la buona notizia, l'Evangelo. E dovete considerare questo, che nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco perché vi annunzio l'Evangelo, perché è credendo nell'Evangelo che l'uomo viene giustificato. E non solo giustificato, quindi reso giusto, ma viene anche perdonato, perché riceve la remissione dei peccati mediante il nome del figliolo di Dio. Viene riconciliato con Dio, perché nel momento appunto in cui viene giustificato cessa di essere un nemico di Dio, ma diventa un amico di Dio, l'uomo che crede nell'Evangelo. E l'uomo che crede nell'Evangelo riceve anche, oltre quindi alla giustizia, oltre alla remissione dei peccati, oltre alla riconciliazione, la salvezza dal peccato, cioè la liberazione dal peccato di cui egli è schiavo, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, quindi ottiene una liberazione, viene reso libero mediante appunto la fede in Cristo, e oltre a ciò l'uomo che crede nell'Evangelo ottiene la vita eterna, perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù, è il dono di Dio che hanno coloro che credono in Cristo. Dunque, per questa è la ragione per cui vi esorto a ravvedervi, cioè a cambiare modo di pensare, di abbandonare, appunto vi esorto ad abbandonare i vostri pensieri iniqui e a credere nell'Evangelo, perché il Signore, se voi crederete nell'Evangelo, avrà misericordia di voi, vi salverà, vi perdonerà, vi giustificherà, vi riconcilierà a sé, vi darà la vita eterna. Ma rendetevi conto del bene che riceverete se crederete nell'Evangelo. La vita eterna, considerate per un momento, la vita eterna, cioè avrete la certezza che quando morirete andrete ad abitare con il Signore in cielo, con il Signore, nei luoghi altissimi, dove appunto i santi si riposano dalle loro fatiche. Meraviglioso. Ma io vi avverto che se rifiuterete di credere nell'Evangelo, i vostri peccati vi saranno ritenuti, continueranno a gravare sopra di voi, continuerete ad essere degli schiavi del peccato, continuerete ad essere dei peccatori agli occhi di Dio, dei nemici di Dio, e se persevererete nella vostra incredulità, quando morirete, ve ne andrete all'inferno. Sì, perché l'inferno esiste, è un luogo di tormento reale, dove c'è un fuoco reale, un tormento reale, dove vanno tutti coloro che muoiono nei loro peccati. Quindi per questo vi rinnovo l'esortazione a ravvedervi e a credere nell'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Ricordatevi, l'Evangelo è potente a salvarvi, naturalmente se crederete in esso, altrimenti rimarrete sotto il peccato, sotto l'ira di Dio, sotto la condanna di Dio, è ciò che vi aspetterà, è l'inferno, il tormento nelle fiamme dell'inferno. Quando morirete, quando spirerete, discenderete con la vostra anima in questo luogo orribile, orribile, tremendo, tremendamente brutto, e là naturalmente non c'è acqua, c'è solo il ricordo dell'acqua sì, ma non c'è acqua, e là sarete tormentati in mezzo al fuoco, in attesa voi del giorno del giudizio, quando poi risorgerete, risusciterete in resurrezione di condanna, per essere giudicati da Dio secondo le vostre opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, che è un altro luogo di tormento dove passerete l'eternità, anima e corpo. Sì, nei secoli dei secoli passerete appunto, l'eternità in questo luogo di tormento, là sarete tormentati nei secoli dei secoli. Considerate dunque quello che vi aspetta se rifiuterete di ravvedervi e di credere nell'Evangelo. Vi aspetta un'eternità piena di tormenti, di infamia, di vergogna. Quindi non illudetevi. Se non crederete nell'Evangelo, voi non potrete essere giustificati, potrete impegnarvi nel sociale quanto vorrete, potrete fare tutte le vostre opere buone, potrete veramente fare tutto quello che naturalmente pensate di fare di bene, no? Per autogiustificarvi, ma sappiate che se rifiuterete di credere nell'Evangelo, quelle opere non vi serviranno assolutamente a niente. Sono come un abito lordato, un abito sporco agli occhi di Dio. Invece, se crederete nell'Evangelo, otterrete la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. È una giustizia, appunto, mediante la quale si ha pace con Dio. Quindi non illudetevi, la giustificazione non è per opere, non ce la si può guadagnare, non ce la si può meritare. La giustificazione si ottiene gratuitamente da Dio, per grazia, mediante la fede. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo della grazia di Dio. Chi ha orecchi da udire, oda.